Mango Tart legge Mena Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 4. Hermione riapparve in un atrio buio, una stanza immacolata e vuota. Un tavolo circolare nero, laccato, era piazzato al centro della stanza. Sul tavolo c'era un grande bouquet di fiori bianchi. Si girò lentamente. Non voleva perdersi nessun dettaglio, ma le alette della cuffia agivano come dei paraocchi. Poteva guardare solo davanti a sé. Sulla destra si trovava una grande sala. Freddi corridoi portavano nell'oscurità e più all'interno della casa. Si trattava di una menor, ed era enorme a giudicare dalla larghezza della scala. «Ciao, sangue sporco!» Una voce fredda la fece gelare. Girandosi lentamente, trovò Draco Malfoy. Era più grande. Il suo ultimo ricordo di lui risaleva al quinto anno, quando era nella squadra di Inquisizione. Era più alto, la sovrastava e il suo viso aveva perso ogni traccia di fanciullezza. C'era una pericolosità, raffinata brutalità in lui. Il modo in cui la guardava. I suoi occhi erano come quelli di un lupo, freddi e feroci. La letalità in lui era palpabile. Mentre la guardava, ne era certa, avrebbe potuto sporgersi in avanti e tagliarle la gola, poi fare un passo indietro per non sporcarsi le scarpe di sangue. Era Lyriv, il braccio destro di Voldemort, il suo boia. Aveva ucciso tutti i suoi amici. Ginny, la McGonagall, Moody, Neville, Dean, Seamus, la Sprout, Madama Pomfrey, Flitwick, Oliver Wood. E la lista continuava. E tutti quelli che erano stati torturati a morte subito dopo la battaglia finale, chiunque lei sapeva essere morta dopo la guerra. Lyriv li aveva uccisi tutti. Le ragazze glielo avevano sussurrato durante le prime notti, raccontandole del mondo dell'orrore che si era persa, rinchiusa sotto Hogwarts. Non aveva mai pensato che potesse essere qualcuno che conosceva, qualcuno di così giovane. Il terrore le salì dentro. Non era sicura di cosa fare per gestire lo shock, prima che potesse reagire o anche solo elaborare. Lui la fissò e si fece bruscamente strada nella sua mente. La forza la fece quasi svenire. La sua intrusione mentale fu come una lama che penetrava direttamente nei suoi ricordi. Tagliò la fragile barriera che cercava di erigere con i brandelli di magia interna che riusciva ad evocare. Trapanò nei suoi ricordi bloccati. Era come avere un chiodo piantato nella testa, di precisione e forza implacabili. Non smetteva di cercare di sfondare le sue barriere. Era quasi peggio della maledizione Cruciatus. Durò più a lungo di quanto si potesse torturare una persona senza farla impazzire. Quando finalmente si fermò, lei si ritrovò sdraiata a terra. Malfoy era in piedi, sopra di lei, e la fissava mentre rabbrividiva per il trauma della sua intrusione. «Allora hai davvero dimenticato tutto», disse mentre la studiava. «Cos'è che credi di proteggere in quel tuo cervello? Hai perso la guerra?» Non poteva rispondere. Non aveva una risposta. «Oh beh», disse lui, raddrizzandosi leggermente la veste. «Il signor oscuro è stato così gentile da mandarti da me. Se mai recupererai i tuoi ricordi, sarò il primo a saperlo». Le sorrise per un momento prima che il suo viso diventasse freddo e indifferente. Poi passò sopra il suo corpo e uscì dalla stanza. Hermione si trascinò in piedi, tremando per l'angoscia e la rabbia che provava. Lo odiava. Non aveva mai odiato Draco Malfoy prima. Era semplicemente un bullo indottrinato, un sintomo di una malattia di cui altri erano responsabili. Ma ora lo odiava, per quello che era diventato, per quello che aveva fatto. Lui la possedeva era intrappolata sotto i suoi piedi e lui intendeva schiacciarla finché non avrebbe ottenuto ciò che voleva. Strinse la mascella mentre si costringeva a pensare oltre la sua improvvisa rabbia. Il suo piano rimaneva lo stesso. Doveva trovare un modo per scappare o indurlo ad ucciderla. Non era quello che si aspettava. Aveva sperato che Lyreev fosse guidato dall'impulsività e anche se il Malfoy che aveva conosciuto a scuola lo era stato, ora sembrava freddo come il ghiaccio. Cosa che ovviamente avrebbe dovuto capire. Legimanzia, occlumanzia, la chiave di tutto era il controllo, la capacità di compartimentalizzarsi dietro a delle barriere. Ci sarebbe voluta astuzia per farlo cedere abbastanza da commettere un errore come ucciderla. Qualunque cosa avesse fatto, non sarebbe stata in grado di realizzarla immediatamente. Non poteva affrettare le cose. Non poteva essere imprudente. Sarebbe dovuta rimanere lì, aspettare e sopportare quello che sarebbe successo finché non avesse trovato un varco. Il pensiero la fece rabbrividire. Aveva la gola secca mentre deglutiva e cercava di pensare. Uno scatto di tacchi sul pavimento di legno attirò la sua attenzione. Una piccola strega bionda entrò nella stanza. Lei e Hermione si fissarono per diversi lunghi momenti. «Allora sei tu!» disse la strega sollevando il naso in aria. «Togliti quello stupido cappello e vieni con me. Dobbiamo rivedere le istruzioni insieme prima che io possa metterti dove ti dobbiamo tenere.» La bionda girò sui tacchi e marciò di nuovo fuori dalla stanza. Hermione la seguì lentamente. La strega le era familiare. «Una Greengrass», pensò. «Non Daphne, ma forse la sorella minore.» Non riusciva a ricordare il suo nome. La condusse in un salotto. Malfoy era già lì, seduto su una sedia dall'aspetto scomodo e sembrava annoiato. Hermione si tirò via la cuffia. «Allora», disse la strega che Hermione supponeva dovesse essere la moglie di Malfoy mentre si sedeva su una delle altre sedie. «La guaritrice Stroud ci ha mandato una serie di istruzioni. Chi immaginava che ci dovessero essere delle istruzioni da seguire per una sangue sporco? Comodo, vero?» Il sarcasmo nella piccola voce acuta della strega era fragile. «Leggilo e basta, storia», disse Malfoy lanciando un breve sguardo alla strega. «Astoria», quello era il suo nome. «Vediamo. Niente torture o abusi fisici su di lei. Deve essere nutrita a dovere. Possiamo farla lavorare, ma non più di 6 ore al giorno. E deve passare almeno 1 ora all'aperto ogni giorno.» Astoria rise un po' maniacalmente. «È un po' come tenere un croup, no? Chi l'avrebbe detto? Ah sì, che delizia! Riceveremo un gufo ogni mese nei 5 giorni in cui sei tenuto a... La guaritrice Stroud ha incluso una piccola nota personale qui, menzionando che a causa dell'interesse specifico del signor Oscuro per la famiglia Malfoy e la sangue sporco, verrà di persona ogni mese per vedere se hai avuto successo.» Astoria sembrava così isterica che Hermione era sorpresa non avesse iniziato a urlare o a rompere una sedia. «Leggi qui! Io ho il permesso di guardare! Per assicurarmi che tutto sia clinico tra te e la sangue sporco!» Astoria impallidì scioccata, sembrava quasi folle. Le tremavano le mani mentre accartocciava i fogli che aveva in mano e li sbatteva sul tavolo. «Non lo farò!» disse, la voce tagliente e vibrante. «Se hai qualcosa in contrario puoi trascinarmi davanti al signor Oscuro in persona prima di uccidermi. Non guarderò!» urlò l'ultima parte. «Fai quello che vuoi, basta che tu stia zitta!» disse Malfoy, il tono seccato mentre si alzava e usciva dalla stanza. Hermione rimase immobile vicino al muro. Astoria rimase seduta tremante sulla sedia per diversi minuti prima di parlare con lei. «Mia madre allevava croup. Begli animaletti», disse. «Che divertimento farlo ora con i maghi!» Lei non disse nulla. Rimase in piedi davanti al muro cercando di non muoversi, sperando di non avere spasmi. «Sto facendo finta di essere un albero», pensò debolmente tra sé. Finalmente Astoria si alzò. «Ti mostro la tua stanza, puoi fare quello che vuoi, ma non voglio vederti. Ho capito che quei braccialetti che hai ti tengono lontana da qualsiasi problema». Scesero per un lungo corridoio e poi attraverso una porta stretta e parzialmente nascosta che portava a una scala tortuosa per la servitù. Dopo aver salito 3 piani, rientrarono in un ampio corridoio principale della casa. Erano in un'altra ala. Le finestre erano tutte pesantemente oscurate. Faceva freddo ed era tutto avvolto da un velo di mistero. I mobili erano tutti coperti da strati di polvere bianca. «Quest'ala è abbandonata», disse Astoria come se non fosse ovvio. «Abbiamo più servitori di quanti ce ne servano. Resta qui e non farti più vedere a meno che non venga chiamata. I ritratti ti terranno d'occhio». Astoria spinse una porta. Hermione entrò. Era una grande camera da letto. C'era un letto a baldacchino al centro e una sola sedia con lo schienale ad ala vicino alla finestra. Un grande armadio contro una parete. Non c'erano tappeti. Un ritratto appeso alla parete. Nessun libro. Tutto era freddo. Spoglio. «Se hai bisogno di qualcosa, chiama un elfo domestico», disse Astoria prima di chiudere la porta. Hermione rimase ad ascoltare i suoi passi che si allontanavano. Essere improvvisamente lasciata senza sorveglianza e senza essere in una cella la disorientava. L'improvviso cambiamento era allo stesso tempo eccitante e terrificante, come se si fosse improvvisamente buttata da un precipizio. Lasciò cadere la cuffia sul pavimento accanto alla porta e si avvicinò a una finestra. La campagna fredda e invernale si estendeva a perdita d'occhio. Mentre la osservava, considerò la situazione. Malfoy e Astoria chiaramente non si piacevano. Non era sorprendente. Come se i matrimoni combinati dei puro sangue non fossero già abbastanza disfunzionali, vederli organizzati da Voldemort al solo scopo della riproduzione doveva aver soffocato ogni potenziale scintilla, soprattutto dopo che non erano riusciti a riprodursi. Astoria non sembrava particolarmente spaventata da Malfoy, quindi presumibilmente lui non era così irascibile da essere violento con lei. Sembrava in gran parte risentita e indifferente. Lui non pareva essere un marito attento, neanche lontanamente. Il suo riguardo per Astoria sembrava essere sulla falsariga del trovarla un parassita che era obbligato a sopportare. Qualunque cosa Astoria potesse sentire riguardo a suo marito o al matrimonio, la presenza di Hermione come surrogata chiaramente le bruciava. Sembrava determinata a ignorare la sua esistenza per quanto possibile. Lei non aveva obiezioni. Meno giocatori c'erano di cui preoccuparsi, meglio era. Se avesse dovuto preoccuparsi di respingerla o placarla, sarebbe stata una sfida in più. Se fosse stata attenta a suo marito, avrebbe reso la fuga o la ricerca di un modo per manipolare Malfoy molto più impegnativa. Invece, fingendo che Hermione non esistesse, lo scenario era più facile. Si sarebbe tenuta nascosta, nell'ombra, il più possibile, finché non ci sarebbe stata l'opportunità di agire. La chiave sarebbe stata studiare Malfoy, scoprire cosa lo spingeva a fare quello che faceva. Quali erano le sue falle? Cosa poteva sfruttare in lui? Non sembrava essere particolarmente interessato a Hermione, al di là dello scoprire quali potessero essere i suoi ricordi perduti. Se era così, era un sollievo. Forse avrebbe anche scelto di lasciarla per lo più in pace. Era sicura che, se avesse voluto, avrebbe potuto inventarsi qualsiasi modo per torturarla senza mettere a rischio la sua fertilità. Draco Malfoy era la Eriv. Ne era ancora scioccata. Cosa gli era successo durante la guerra per renderlo così spietato? L'odio richiesto per lanciare con successo un anatema che uccide era immenso. Infliggere la morte istantanea ti strappava qualcosa. La maggior parte dei maghi e delle streghe oscure ci riusciva solo occasionalmente. Questo era parte del motivo per cui c'erano così tante maledizioni usate per uccidere. Il sadismo aveva un ruolo importante, ma la verità era che nessun'altra maledizione era irreversibile e inarrestabile come l'anatema che uccide. Il potere necessario per utilizzare qualcosa di così definitivo era... Beh, non c'era nulla a cui paragonarlo in realtà. L'abilità di Voldemort di lanciarlo ripetutamente e immancabilmente era parte della ragione per cui ispirava tanto terrore. La reputazione dell'Ayriv per l'uso della maledizione era già altrettanto leggendaria. Lo aveva fatto salire al più alto grado dei Mangiamorte. Ed era Malfoy. Avrebbe dovuto muoversi con cautela. La disinvoltura con cui Malfoy avevano trattato il suo arrivo indicava una sicurezza assoluta. Lasciarla nell'atrio, mostrarle la casa, metterla in un'ala non occupata. Era certa che non ci fossero facili vie di fuga. Finché non fosse riuscita a togliersi le manette, Malfoy sarebbe stato sempre in grado di trovarla e lei sarebbe stata incapace di respingere lui o chiunque altro. Sospirò e il suo respiro creò un piccolo cerchio di condensa sul vetro freddo della finestra. Sollevando un dito sul vetro, disegnò la runa Thurisaz. Per la difesa, l'introspezione e la concentrazione. Accanto ad essa disegnò il suo rovescio, la sua Merkstav, il pericolo, la mancanza di difesa, la malizia, l'odio e il dispetto. Quello di cui aveva bisogno e quello che aveva. Doveva invertire la fortuna. Guardò le rune svanire sul vetro mentre la condensa evaporava di nuovo. Da nessuna aveva sentito che la resistenza esistesse ancora. A parte Hermione, tutti i membri dell'ordine sopravvissuti alla battaglia sembravano essere morti. Anzi, le loro morti erano state provate pubblicamente, i cadaveri impiccati per assicurare che non ci fosse spazio per la speranza. La resistenza si era sgretolata alla morte di Harry. Voldemort sembrava essere stato attento ad assicurarsi che l'Ordine della Fenice non avesse nessuna scintilla con cui resuscitare se stesso. Mentre la guerra si trascinava negli anni, era diventato più cauto e meno sicuro della sua infallibilità di quanto non fosse stato durante gli anni di Hermione ad Hogwarts. Era stato scrupoloso e la cosa era preoccupante. Se aveva elevato Malfoy ad Ayriv, probabilmente significava che anche Malfoy era scrupoloso. Non era una persona incline a commettere sbagli o errori di valutazione. Forse c'era ancora una resistenza da qualche parte. Le donne ad Hogwarts avevano saputo solo quello che le guardie avevano detto loro. Forse c'erano ancora delle fazioni che lavoravano contro Voldemort. Se fosse fuggita, forse avrebbe potuto trovarle e alla fine dare loro qualsiasi segreto stesse nascondendo. Dato che si trovava nella casa dell'Ayriv, se fosse stata intelligente, sarebbe stata in grado di ottenere informazioni utili. Se avesse continuato a comportarsi in modo flessibile, cooperativo, obbediente. Pensandola veramente a pezzi, forse sarebbero diventati disattenti anche intorno a lei. Avrebbe aspettato. Era molto brava ad aspettare.